Stefano, di dove sei? Sono di Milano. Ok, Guerrilla Gardening, tu di professione fai giardiniere, no? Io sono giardiniere, sì. E invece di militanza fai Guerrilla Gardening? Ma ci provo, devo dire che è ancora un embrione qua in Italia, ma è una realtà che esiste. Che cos'è Guerrilla Gardening? Ma semplicemente il reclamare gli spazi abbandonati della città dai giardini o spazi verdi, o addirittura proprio togliere il cemento e piantare piante da parcheggi abbandonati o spazi appunto in disuso. Movimento che è nato, diciamo, già in America dagli anni 60, soprattutto da donne è cominciato, che si è sviluppato, se vuoi, da una radice addirittura antecedente ai primi immigrati, che se vuoi è successo anche qui, non so, qua magari si limitano ancora a fare gli orticelli, capito? Gli immigranti che arrivano dal meridione vogliono il pezzo di terra, ma non c'è una concezione di occuparsi il pezzo di terra per restituirlo alla comunità e fare un parco giochi. Ci sono 12 orticelli, ognuno col suo lucchetto, ognuno col suo, capito, catenaccio, e litigano per quel pezzettino. Invece questa riappropriazione dello spazio pubblico verde. Così è nato in America, appunto, già dalla Seconda Guerra Mondiale, il fatto di riappropriarsi o di coltivare la terra in città per autosostenersi e non pesare sulla nazione, proprio era un gesto patriottico. E da lì si è sviluppato, rimanendo in radici abbastanza popolari, quindi in quartieri popolari, ma è diventato un fenomeno appunto anche di, se vuoi, di rivoluzione a livello urbano dagli anni 60. In Italia è rimasto tale, nel senso che non è andato oltre al fatto che chi si prende i pezzi di terra lo fa per un bisogno di farsi l'orto, per appunto, però è un bisogno privato, e cercare di aprire una breccia in questo, sotto questo punto di vista, e invece riappropriarsi di questi avanzi di metropoli, spesso vicino alle ferrovie o vicino, capito, a zone che non interessano a nessuno, ma con vicino un quartiere residenziale, perché non un parco giochi, capito? In Italia proprio non è nelle priorità, però sarebbe bello far sì che succedesse in un modo o nell'altro. Cosa consistono le pratiche di Guerrilla Gardening? Appunto, nel riappropriarsi di uno spazio non mantenuto e piantare del verde, ma appunto cercando di coinvolgere la comunità che ci vive fondamentalmente. Una delle azioni più eclatanti di Guerrilla Gardening degli ultimi anni? Ma appunto a Milano non te ne posso dire neanche una di eclatante, perché appunto non hanno a livello internazionale. A livello internazionale appunto ci sono sicuramente a Berlino, anche lì non ti posso dare degli episodi singoli, è un movimento che si muove e non ha un suo manifesto, un suo networking, è appunto più un concetto di cercare di fa le cose senza troppo risalto mediatico, insomma, le fai e basta. Le fai e basta, e è un riscontro poi sul locale, capito? Non c'è appunto un po' una rivendicazione di quello che si fa, è semplicemente un prevenire speculazioni edilizie, un prevenire parcheggi dove non servono, e devo dire che appunto episodicamente funziona. A livello, quando il business entra in azione, poi rade al suolo dove comunque e dovunque, ma a livello locale si potrebbe costruire, se vuoi, un percorso. Io non mi sono, appunto, ancora non ho trovato, diciamo, un abbastanza. Guerrilla Gardening quindi sarà una delle anime di Neurogreen. Proveremo, sì, a inserirla in una delle, secondo me, sì, come priorità, secondo me come azione diretta è sicuramente una di quelle che può portare più curiosità nella gente, non so, e coinvolge appunto dal bambino al pensionato, indipendentemente si possono fare mansioni per il giovane forzuto, come appunto per il bambino e come per il pensionato, che può essere solo quello che poi va a bagnare quello che noi giovani e balde abbiamo piantato, capito, che può essere che abita lì davanti. Quindi secondo me è un buon, come dire, banco di prova per vedere se c'è una sensibilità reale nella popolazione a livello proprio diretto, a cui parallelamente riuscire a associare un discorso un pochino più mediatico, con appunto anche delle valenze più a lungo termine come concetto generale di riappropriazione di spazi e di idee fondamentalmente. Grazie Stefano. Radioactive 22 gennaio 2005, Torino.